sta qui vicino a me. Ne riguardo né attenzione se superi la soglia in devozione. Cosa c'entra ogni persona la sua realtà? Sopravvivere.